24, i gialli della storia. Ero un bambino ed era la prima volta che sentivo altra gente sproloquiare e farneticare contro gli ebrei. Nella nostra famiglia non esisteva la concezione che gli ebrei fossero diversi. È la notte del 9 novembre del 1938. Il nostro primo testimone è il futuro ministro della giustizia, Hans Vogel, all'epoca un bambino. In tutta la Germania nazista le sinagoghe vengono date alle fiamme, gli ebrei vengono picchiati, le case e i negozi distrutti. Tutto questo succede nell'indifferenza generale. Oggi a Mix 24 racconteremo il giallo di quella notte, di quei giorni, perché è allora che si manifesta il preludio della Shoah. Nei primi anni di governo i nazisti hanno tentato di convincere la gente a boicottare i negozi ebraici, ma la campagna dell'aprile del 33 non si è rivelata particolarmente fortunata. A fare soldi non erano solo le imprese, ma anche l'operaio medio. Mio padre mi diceva sempre: le cose non andrebbero affatto male con Hitler se solo non fosse così anticlericale. Era questo il tipo di consenso che riscuoteva all'epoca. Nella nostra famiglia c'era il classico antisemitismo cattolico. Gli ebrei erano quelli che avevano crocifisso Nostro Signore e cose del genere, ma finiva lì. Ci facevano pena per quello che stavano passando, anche se per alcuni anziani era la giusta punizione mandata da Dio. Continuavamo a comprare nei negozi ebraici, ma ci tenevamo un po' a distanza. Ma l'ideologia nazista a poco si insinua in tutte le classi sociali. I principi del nazionalsocialismo vengono inculcati anche nei bambini. L'antisemitismo diventa un requisito fondamentale nella formazione scolastica. Gli ebrei sono la nostra disgrazia. Gli ebrei hanno tante colpe. Usano i loro stratagemmi economici per sfruttare i tedeschi. Nella gioventù hitleriana, di cui sono entrato a far parte a 10 anni, nel 1936, capitava che durante le serate sociali ci parlassero delle difficoltà che avremmo dovuto patire per colpa degli ebrei. Talvolta dovevamo perfino cantare delle orribili canzoni su di loro. Gli ebrei errano da un luogo all'altro. Attraversano il Mar Rosso. Le onde si richiudono su di loro. Il mondo è in pace. Molte famiglie ebree lasciano la Germania, ma per i nazisti non è ancora abbastanza. Alla fine di ottobre gli ebrei con passaporto polacco che vivono nella Germania nazista vengono arrestati e condotti al confine con la Polonia, lo racconta Henry Strauss. Era il 28 ottobre, stavo tornando a casa con un compagno di classe e mi chiedevo cosa fosse successo agli altri che non erano venuti a lezione quel giorno. In classe eravamo alla metà e a un certo punto eccoli lì con i loro genitori. C'erano molte altre famiglie e bambini che non erano in classe con me. Erano stretti gli uni agli altri, seduti sulle valigie, imbacuccati in abiti pesantissimi. C'era un grande silenzio. Vederli in faccia è stata durissima. Quel giorno ho visto la gente deportata e respinta in una terra di nessuno, al di là del confine polacco. I polacchi non li volevano. I tedeschi neanche. Se ne stavano lì all'aperto, al freddo, senza cibo né riparo. Non potevano tornare a casa loro e non sapevano dove andare. Tra gli sfollati il sarto Sendel Grispan, che con la famiglia vive ad Hannover dal 1911. Il figlio Herschel vive a Parigi e quando viene a sapere quello che sta succedendo alla sua famiglia decide di intervenire. Il 7 novembre si presenta all'ambasciata tedesca e quando viene ricevuto dal consigliere di legazione Ernst von Rath, spara, ferendo gravemente allo stomaco il diplomatico. La polizia francese stabilisce che il ragazzo ha agito da solo, ma il ministro della propaganda Goebbels è determinato a sfruttare al massimo l'incidente. Ne parla ancora Hans Jochen Vogel. Era su tutti i giornali. Ne parlava anche la radio, che a quei tempi erano già in molti ad avere in casa. Era una notizia sensazionale. Ovviamente veniva riportata dal punto di vista nazionalsocialista. Del colpevole dissero solo che si trattava di un giovane ebreo. Delle ragioni per cui aveva compiuto quel gesto, nessuna menzione. Ma il fatto che un ebreo avesse sparato a un diplomatico tedesco rappresentava di per sé una storia eccezionale. La macchina della propaganda si mise subito in moto. Una volta appresa la notizia, una folta schiera di persone saccheggia e distrugge negozi e istituzioni ebraiche. Gli ordini di sospendere immediatamente tutte le dimostrazioni contro gli ebrei viene ignorato. Alle 4:30 del pomeriggio del 9 novembre, von Rath muore e la notizia raggiunge immediatamente Monaco, scatenando la furiosa reazione di molti abitanti, come ricorda Franz Josef Müller. All'improvviso abbiamo sentito un gran rumore e tanta agitazione provenire dalla strada. Tutto è iniziato in quel momento. Rompevano i vetri, sfondavano le porte a calci. Una delle case era un paio di edifici dalla nostra e un'altra era sul lato opposto. Sembravano vandali, facevano a pezzi tutto. Avevano una grossa ascia o qualcosa di simile. Hanno rotto tutti i vetri e distrutto il grosso bancone di marmo di una macelleria. Ma soprattutto ero impressionato nel vedere delle persone comportarsi in quel modo contro chi faceva parte della stessa comunità. Cittadini di Hadamar che distruggevano le proprietà di altri cittadini di Hadamar. Nel frattempo anche a Essen il pogrom procede a pieno ritmo, la sinagoga viene data alle fiamme e la casa del rabbino che è proprio accanto è in pericolo. È la figlia del rabbino che ricorda quei terribili momenti. Abbiamo sentito un gran rumore nel cuore della notte. Mia madre è venuta in camera nostra dicendo che i nazisti erano entrati in casa. E ci avevano ordinato di lasciarla. Così ci siamo vestite. Mia madre, nel frattempo, era giù con mio padre perché i nazisti lo stavano sbeffeggiando, lo prendevano in giro e lui era in pericolo. Poi il custode del piano di sotto è corso su e ci ha detto: «La sinagoga sta andando a fuoco, dovete andarvene». Noi siamo scese giù al secondo piano. I nazisti stavano ancora demolendo, distruggendo tutto. Si stavano divertendo. Erano sarcastici e crudeli. Ci guardavano come per dire: «Cosa si prova a vedere andare a fuoco la vostra bella sinagoga?». Nel cuore della notte il commerciante Gustav Strauss e la sua famiglia vengono aggrediti dalle SA, le squadre d'assalto, nella loro abitazione ad Essen. Alle 5 di mattina abbiamo sentito battere alla porta. Tre o quattro persone hanno invaso l'appartamento. «Raus, raus, raus, fuori, fuori!» Hanno iniziato a buttare in aria mobili, a tirar via i piatti dalle credenze e a fracassarli in terra. Noi ovviamente siamo usciti di gran corsa. La sinagoga stava andando a fuoco. È stato terribile. Ma solo quando abbiamo visto la sinagoga avvolta dalle fiamme, abbiamo capito di essere davvero in pericolo. Mia sorella e io eravamo entrambe terrorizzate. A un certo punto ho sentito una voce piuttosto autoritaria dire qualcosa del tipo: lasciatele stare, sono solo bambine. Tutti si sono fermati. Noi abbiamo attraversato la strada e mi sono sentita così sollevata quando ho visto che dall'altra parte c'erano mia madre e mio padre ad aspettarci. Di lì siamo andati alla residenza delle infermiere ebree. Siamo rimasti lì finché poi non abbiamo lasciato la Germania. All'1:20 il capo della sicurezza, Reinhard Heydrich, telegrafa a tutti i dipartimenti di polizia del paese dicendo che non bisogna interferire nella distruzione delle sinagoghe. Occorre inoltre arrestare quanti più ebrei maschi e in buona salute e deportarli nei campi di concentramento. L'obiettivo è costringerli a lasciare la Germania per potersi impossessare dei loro averi. Così i pogrom si diffondono in tutto il Terzo Reich. Ad Hadamar, piccola cittadina dell'Asia, vive Franz Möhrer, mastro fornaio che è un convinto democratico che non nasconde il suo disprezzo per il nazismo. Così la mattina del 10 novembre non ha un attimo di esitazione. Verso le 6 di mattina dalla sinagoga è arrivato un signore. Vedendola in fiamme, ha avvertito un vicino e mio padre, che era in negozio. Ha bussato alla finestra e ha urlato: «La sinagoga sta bruciando!» I due uomini sono poi andati insieme alla sinagoga e hanno cercato di spegnere l'incendio. Le squadre d'assalto avevano buttato tutto quanto in terra, dai giornali ai vestiti, qualunque cosa avessero trovato lì, e avevano dato fuoco a tutto. Ma alla fine mio padre e il vicino sono riusciti a domare l'incendio. Nel 1944 Josef Möhrer verrà arrestato dai nazisti e imprigionato. Dopo la guerra le forze di liberazione americane lo eleggeranno sindaco. Ma in quel terribile novembre del 1938 la violenza è inarrestabile. Persino i vigili del fuoco partecipano agli incendi delle sinagoghe. La mattina del 10 novembre anche a Pforzheim i nazisti danno la caccia ai cittadini ebrei. Sono stato svegliato da un gran rumore nel palazzo. Alla nostra porta si erano presentati due giovani. Mio nonno ha aperto e quei ragazzi lo hanno aggredito e lo hanno buttato in terra. Avevano degli oggetti affilati e lui sanguinava. La mia famiglia si è precipitata al telefono per chiamare la polizia, che però non rispondeva. Il medico, che ha risposto dopo un po', disse che non erano i primi a chiamare per quel motivo. Uno dei nostri trasportatori ci consigliò di andare a casa sua in paese e di nasconderci lì. Ovunque c'erano centinaia di persone che inveivano contro gli ebrei e le loro attività commerciali. Ma lui aveva acceso gli abbaglianti e ricordo mio padre e io seduti in questo camion mentre lui ci conduceva nel suo paese, dove poi ci siamo fermati per la notte. Anche nella cittadina di Kitzingen la situazione è tragica. Era mattina presto, tra le 5 e le 6, e fuori da casa nostra c'era un gran rumore. Abbiamo dato un'occhiata dalla finestra e abbiamo visto gente che rompeva i vetri dei nostri vicini dall'altro lato della strada. C'era anche un ebreo che veniva portato via. Ogni mattina alle 6 c'era la preghiera in sinagoga e mio padre voleva andarci come sempre. Mia madre si è opposta e gli ha detto: è meglio chiamare il rabbino. Il rabbino gli ha detto: non uscite, è più sicuro restare in casa. Non dovete assolutamente andare in sinagoga. Verso le 8 di mattina, davanti a casa nostra, si era radunata una vera e propria folla. Erano prevalentemente giovani, nessuno di loro in uniforme. Per rompere le finestre, tiravano sassi, filoni di pane che avevano preso dal vicino di fronte a noi, un registratore di cassa e Dio solo sa cos'altro. Era terribile. Dopo mezz'ora, forse un'ora, hanno forzato la porta e sono entrati in casa. La nostra era una piccola villetta unifamiliare. Siamo saliti al primo piano perché al pian terreno avevano iniziato a distruggere tutto quello che avevano sotto mano. Pregavamo e speravamo che non venissero su. Temevamo anche che potessero dare fuoco alla casa. Dal piano di sotto li sentivamo gridare ogni sorta di insulto. Eravamo davvero convinti di non uscirne vivi. Nella cittadina di Buell, nella regione di Baden, i vigili della squadra antincendio non intervengono per salvare dalle fiamme la sinagoga. Provano invece a impedire che il fuoco si propaghi agli edifici adiacenti. L'incendio distrugge completamente la sinagoga. Le rovine rimaste saranno abbattute qualche giorno più tardi a spese della comunità ebraica. Ancora Hans Jochen Vogel. Tutti i miei compagni di classe stavano lì, insieme ai ragazzi delle altre classi. Saranno stati 60-70 bambini in tutto. Sono rimasti lì a guardare in silenzio per quasi tutto il tempo. Non c'era né approvazione né disapprovazione. Alcuni chiedevano: di che si tratta? Che significa? Perché la sinagoga brucia? Ma nessuno protestava. Più tardi, come era da aspettarsi da un gruppo di ragazzi, abbiamo fatto la stessa domanda al nostro insegnante. Era un nazionalista, ma non un nazista. È rimasto un po' imbarazzato. Da quanto mi ricordo, ha risposto cose tipo: quella è la furia della gente scatenata dall'omicidio di von Rath. Forse ci ha anche detto che cose del genere erano avvenute anche in passato, che la gente aveva già sfogato la propria rabbia contro gli ebrei. Poi gli abbiamo chiesto se alle chiese cristiane un giorno sarebbe toccata la stessa sorte e lui ha risposto di no. Quella era una questione completamente diversa perché era stato un ebreo a uccidere von Rath. Anche a Urskirchen, vicino a Colonia, la sinagoga viene data alle fiamme. La popolazione assiste a una scena terribile. Qui, come in molte altre città della regione del Reno, il 10 novembre, cioè la vigilia del giorno di San Martino, ogni anno facevamo una processione. Noi bambini portavamo in mano delle lanterne che avevamo costruito con le nostre mani. Ricordo, come se fosse ieri, che quel giorno, quando la processione si è avviata verso Piazza Sant'Anna, alla nostra sinistra vedevamo la cupola della sinagoga bruciare. Era assurdo. Noi cantavamo le canzoni di San Martino e la sinagoga era completamente avvolta dalle fiamme. Terribile. Era uno spettacolo terribile. Dopo un paio di centinaia di metri abbiamo raggiunto Piazza Sant'Anna, dove era già stato acceso il tradizionale falò. Di fronte però c'era una macchina che apparteneva a un ebreo che si chiamava Horn. Questa macchina che andava a fuoco mi ha colpito ancora di più della sinagoga avvolta dalle fiamme. Ero lì in piedi e mentre la guardavo pensavo: perché hanno dato fuoco a questa macchina? A che serve? A mezzanotte i pogrom vengono dichiarati ufficialmente cessati. Secondo la polizia sono stati distrutti almeno 8.000 negozi ebraici e innumerevoli abitazioni. Inoltre, i gerarchi nazisti decidono che saranno gli stessi ebrei a dover pagare per i danni. Viene imposto un contributo di 1 miliardo di Reichsmark i marchi tedeschi sotto la forma di tassa di riparazione. Göring ordina che tutti gli indennizzi assicurativi agli ebrei vengano immediatamente annullati. Con uguale rapidità si organizzano i rastrellamenti. Secondo gli ordini della Gestapo, in tutto il Reich devono essere arrestati dai 20 ai 30 mila ebrei. Henry Strauss che ricorda quel momento. Gli adulti si erano resi conto che la Gestapo stava arrestando tutti gli uomini ebrei. Mio padre tentò di sfuggire all'arresto passando le sue giornate in giro sui tram della città. E il secondo giorno decise di fare un salto a casa per vedere come stavo. Sfortunatamente, proprio mentre era a casa, arrivarono due uomini della Gestapo che lo trovarono e lo arrestarono. Più tardi ci dissero che stavano trasportando fuori città gli uomini ebrei detenuti in carcere. Dopo qualche giorno ricevemmo una cartolina postale da mio padre. Diceva: stiamo andando a sud. Era una frase in codice per dirci che erano diretti a Dachau. Nei campi di concentramento i prigionieri ebrei vengono tenuti in condizioni disumane finché non accettano di emigrare. Non è ancora stato accertato quanti siano quelli che sono morti o che si sono suicidati. Gustav Strauss torna a Essen nel gennaio del 1939. È stato molto commovente. Mio padre aveva perso quasi tutti i capelli e aveva i vestiti stracciati. Era molto dimagrito. Aveva un aspetto terribile. Ma nonostante tutto era a casa. Era vivo. Fisicamente non aveva nessuna ferita. In quel momento abbiamo riso e pianto allo stesso tempo, per la gioia di vederlo. Il 17 novembre del 38 si celebrano i solenni funerali di Stato di Ernst von Rath, a cui prende parte anche Hitler. La propaganda nazista trasforma il diplomatico ucciso in un martire. Sarà la prima vittima nella battaglia del Terzo Reich contro i giudei di tutto il mondo. Erskel Greenspan, il ragazzo che ha attentato alla vita del diplomatico tedesco, rimane in carcere francese finché non viene estradato in Germania nel 1940. Il ministro della propaganda Goebbels intende mettere in scena un processo esemplare di fronte al Tribunale del Popolo. Ma Greenspan rovina i suoi piani. Dichiara infatti di aver avuto una relazione omosessuale con von Rath. Il processo non verrà mai celebrato. Erschel Greenspan verrà in seguito giustiziato in un campo di concentramento nazista. Le emozioni vissute dagli ebrei tedeschi che sono stati vittime di quella violenza sono diverse e contrastanti. E Joseph Hoffer a raccontarle. Quando alla fine della guerra mi sono reso conto che la mia famiglia era stata completamente sterminata, in quel momento ho capito che il mio legame con la Germania era stato spezzato per sempre. Non volevo più avere niente a che fare con la Germania. Ho perfino cambiato il mio nome. Non volevo più avere un nome tedesco. Oppenheim è solo una città tedesca che si trova sul Reno.